English 24. Buonasera da Marta Cagnola. Proseguiamo con le puntate estive del nostro English 24. Riascoltiamo insieme le puntate che più ci hanno appassionato e divertito. Gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo, della cultura, dell'attualità, dello sport, ovviamente solo ed esclusivamente in inglese. In tanti ci hanno tenuto compagnia in quest'ultima stagione di English 24. Ora torniamo con la memoria insieme a Giulia Crivelli al 10 marzo scorso. Si era appena chiuso il Festival di Sanremo. Tanti gli ospiti stranieri, in particolare in quell'occasione abbiamo amato moltissimo, era inevitabile, un chitarrista leggendario. Britannico, classe 1947, ecco chi era il protagonista di quella puntata di English 24. Che cosa vi dice il nome Queen? Vabbè, vi dice sicuramente quella simpatica signora un po' attempata ma molto in forma che vive nel Regno Unito ed è appunto la regina, ma ci fa venire in mente anche uno dei gruppi più famosi, più importanti, più entusiasmanti della storia. Torniamo indietro di un paio di settimane perché eravamo a Sanremo e a Sanremo c'era Brian May, una delle anime dei Queen. Un'esibizione straordinaria, ma anche un uomo molto simpatico. Noi abbiamo seguito il suo incontro con la stampa. Ecco cosa ha raccontato, soprattutto intanto cosa ha ricordato di un Sanremo in cui fece scalpore arrivando con Freddie Mercury e gli altri Queen. Yeah, I knew somebody would bring this up. I remember, for some reason, I remember the party in San Remo. I don't know why that is. But as soon as we drove into the streets today, I remembered it. It all came back and it all seemed very nicely familiar. But I remember we were all upset because we were a live band and we didn't like to be in a situation where we couldn't just be live. So yes, I can vaguely remember that. I think we were all a little uncomfortable and I actually still feel a little uncomfortable looking back on that because I would, you know, no matter how bad you play, you know, it is better to be live than to be, you know, sort of this kind of pretending thing. It always upsets me if you have to, you know, pretend in any way. Eccolo qua Brian May che dice: ero convinto che qualcuno me l'avrebbe chiesto, infatti cercava di ricordarsi cosa gli veniva alla mente di quell'altro Sanremo, insomma di qualche annetto fa, nel quale era arrivato in Italia insieme agli altri Queen. E qui c'è un c'è un verbo irregolare che hai to know, che ovviamente I to know, I knew, known, ma soprattutto c'è uno dei miei amici, i nostri amici, un phrasal verb, to bring up something, che non vuol dire portare su ma tirare fuori, quindi sapevo che qualcuno avrebbe tirato fuori questa cosa o avrebbe portato alla mia attenzione questa cosa. To bring something up. E che cosa lui si ricorda però? Ecco, poi qui anche un altro, un'espressione tipicamente inglese, intuitivamente possiamo capirlo, però in italiano non diciamo proprio così, dice it all came back to me, e tutto mi è tornato indietro, nel senso la memoria, quindi mi è tornata la memoria di quel tempo e quando sono passato per le vie di Sanremo it all seemed very nicely familiar. Familiare, nel senso già visto, già conosciuto, very nicely, quindi una cosa ovviamente ti può sembrare già conosciuta ma ti può portare dei brutti ricordi, no, lui dice very nicely, quindi è evidente che di quella prima volta, anche se c'era Freddie Mercury che non c'è più, adesso siamo without Freddie, lo dice molto chiaramente, però comunque sono delle nice memories. Anche perché mainly lui si ricorda the parties, the cioè parties. Si ricorda le feste che un tempo c'erano a Sanremo, ora sicuramente molto meno, però qualcosa l'ha intristito. Sì, perché poi adesso non so come sia, tu Marta lo sai sicuramente, però all'epoca li facevano suonare in playback, per essere, non so se per essere sicuri che non ci fossero stonature, che poi a Sanremo di stonature ne abbiamo sentite tante. Comunque questa cosa di dover suonare in playback lì upset, we were all upset. To be upset vuol dire, può voler dire tante cose di varia gradazione. Se un ragazzo ti ha lasciato 2 settimane fa, puoi essere molto upset. Però se puoi essere anche upset, appunto, se sei una band che we were a live band, cioè un gruppo che era abituato, quasi viveva per fare i concerti live, e a questo gruppo live, nel senso a Sanremo, viene chiesto di suonare e cantare in playback. E lui dice, anche se suoni male, è meglio suonare male ma dal vivo che far finta. Esatto, dice, no matter how bad you play, quindi un'espressione che conosciamo, che abbiamo sentito tante volte, letteralmente, non importa quanto male tu suoni, it's better to be live than to be pretending things. To pretend, false friend, proprio falsissimo friend, non è naturalmente pretendere, ma far finta di. Quindi è meglio suonare male che non far finta di per esempio, di suonare. Ma poi lui lo dice in generale, cioè it always upsets me, appunto mi lascia così, mi dà fastidio, mi dà una brutta sensazione quando in ogni modo, in qualsiasi modo I pretend in any way, cioè faccio finta magari di voler bene, di essere felice, di essere contento o di suonare e in realtà non è vero. Grandi professionisti, Queen, ora e allora, erano famosi anche perché erano un po' sregolati, lui diceva Sanremo, ci ricordiamo dei grandi parties. Eppure l'eccesso sì, ma è fatto in un certo modo. You say we were very good at excess and music, but really we were good at music and excess second, I think, you know. And I would say strangely enough that the excess was in moderation in a sense, because we knew when to work and when to play. That's the secret, I think, because you know, you're a professional outfit, and if you ever do something to yourself which makes you unable to perform to your maximum ability, then you've thrown away a wonderful opportunity. So we really never placed ourselves in that situation. We knew when there was time off and we could play and we could have fun, etc. But the other answer is, I never took the drugs. I never took any of the drugs. And it was a sort of a decision that I made when I was a teenager. There was enough going on and there was enough joy and exploration in my mind. I didn't want it to be disturbed by drugs. So it just became a habit with me that I didn't go near any of the drugs. Altro che sesso, droga e rock and roll, per niente per Brian May. Sì, oddio, lui dice insomma che bisogna intendersi sulla parola eccesso, quindi qualcuno gli ha detto we were very good at excess and music, quindi to be good at something, un po' lo diciamo anche noi in italiano, no? Siamo bravi, noi diciamo siamo bravi in qualcosa, invece in inglese si dice siamo bravi a qualcosa, quindi eravamo bravi negli eccessi e nella musica, e lui precisa e dice no, diciamo che we were good at music, perché, e qui è una specie di paradosso, the excess was in moderation, sì gli eccessi ci piacevano, ma se fatti con moderazione. Loro sapevano quando era il momento di lavorare e quando era il momento to play, quindi di divertirsi, di far festa. Ed eccolo di nuovo il nostro to know, new known, il nostro verbo irregolare, quindi sapevamo quando appunto lavorare e quando invece when to play, giocare non nel senso di suonare, ma nel senso di giocare, quindi andare per esempio alle feste. E qui c'è un uso interessante della parola outfit, che può voler dire anche semplicemente il look. Cioè tu hai, per esempio, oggi hai un outfit formale, domani hai un outfit casual, però to be a professional outfit vuol dire essere una figura, avere un profilo professionale, cioè noi siamo dei professionisti, dei musicisti professionisti. E quindi se non sei capace di perform, di esibirti al massimo livello, stai sprecando un'opportunità. È molto serio il discorso di Brian May. E qui un altro simpatico verbo irregolare, to throw, molto simile a no, infatti nel simple past sarebbe threw e invece il participio passato thrown. Quindi se non sei capace, se sei unable to perform, you have thrown away a wonderful opportunity, proprio l'hai buttata via, l'hai gettata al vento, un'opportunità wonderful, letteralmente piena di miracolo, quindi fantastica. E lui in prima persona dice, io non ho mai assunto alcuna droga. Ecco, e qui siamo molto contenti per lui, quindi never took the drugs, un altro bel verbo irregolare, to take, took, taken, quindi non ho mai preso droghe, ed è addirittura una decisione that I made when I was a teenager, quindi lui ovviamente viene da un'epoca in cui probabilmente era insomma al momento, come forse purtroppo in certi casi è anche oggi, in cui si può cominciare molto presto a usare le droghe, quindi appunto nell'età dell'adolescenza, teenager, ma è una cosa che in realtà lo disturbava, il fatto che le droghe potessero distoglierlo da quello che gli sembrava il miracolo della vita, quindi era così bello che non voleva essere disturbed by drugs. Ma cosa fa adesso Brian May? Sentiamo. My life is very complicated. I have many threads in my life. So it's very hard to see the future clearly. I love to make music. I love the stuff that I'm doing with Kerry, so I'm hoping we will finish this second album. this year, and I'm hoping that we'll do some more gigs. These days I spend a lot of my time devoted to animals, particularly wild animals, and it's become a very big part of my life. When I'm not doing music or animals, I'm doing astronomy and I'm doing stereoscopy. So life does get very complicated, really, and I also try to be a good father and a good grandfather, which I haven't really got the knack of yet. Ah, and there's Queen. And then as soon as the Queen beckons, we all kind of respond to the call. And so probably we will do something as Queen this year. Allora, lui ha una vita molto complicated, perché ha molti impegni, fa molte cose, oltre al fatto di essere ancora un musicista. Sì, è bella questa immagine, there's many threads in my life, quindi la mia vita è fatta di tanti fili, come un gomitolo, e appunto se uno lo sbroglia, ogni gomitolo è una cosa diversa. Quindi dice, non faccio previsioni, I can't see the future clearly, perché appunto perché fa tutte queste cose, ma una cosa è certa, I love the stuff I'm doing. Sappiamo che questo stuff, scritto S-T-U-F-F, sta per tutto quello che sto facendo. I love the stuff I'm doing. Amo quello che faccio, tutto quello che faccio. Intanto la musica? La musica ovviamente, e spera di fare do some more gigs con le persone con cui to gig è in gergo musicale un piccolo lavoro, un piccolo concerto. E però gli piacciono moltissimo anche gli animali, questo me lo rende super simpatico, e dice a lot of my time, quindi un sacco del mio tempo, it's devoted to animals, è dedicato agli animali. Allora, non solo questo, perché lui comunque ha una famiglia, è un uomo che sotto questo punto di vista è molto morigerato, lo dice subito. Sì, dice che cerca, try to be a good father and a good grandfather, perché evidentemente i suoi figli gli hanno già dato dei nipoti. E poi c'è una cosa interessante che volevo sottolineare, lui l'aveva detto, no? My life is very complicated, e poi lo ripete con quell'enfasi, cioè lui potrebbe dire life gets complicated, e invece dice life does get complicated. L'usare il do does quando non è necessario è per enfatizzare, come se noi dicessimo effettivamente la vita diventa complicata. E l'ultima cosa, oh, there's Queen, cioè ci sono anche Queen. I Queen, quasi se lo dimenticava. Ogni tanto i Queen chiamano. E allora in quel caso I respond to the call, e io ovviamente rispondo alla chiamata. Ci promette farà ancora un po' di cose con i Queen. Ringraziamo Valeria Bernardi, ricordiamo il nostro English 24 in edicola. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.